dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! Come ogni mercoledì siete tornati in diretta qui con Radio Panorama e L'Onda in Onda. Dall'ora dell'aperitivo, dalle 18 alle 20, vi terremo compagnia in questo fantastico pomeriggio qui con noi. Ricordiamo subito i nostri contatti: radiopanorama.info, facebook.com/londainonda per chi volesse seguire la nostra pagina Facebook e scriverci in diretta, oppure twitter.com/ondainonda invece senza la L. Poi la nostra webcam radiopanorama.info.eu per poterci vedere ed ascoltare contemporaneamente, poi sms al 380 76 90 204. Ma questi contatti li ridaremo spesso nel corso della nostra puntata. Io aspetto il mio co-conduttore Antonio, che si è meritato anche una T in meno. Dietro il vetro, Boom alla regia. Un grande applauso a Boom stesso, che lo farà, no, se lo farà, se lo farà da solo. No. Non c'è l'applauso ancora, va bene. Siamo ancora in programmazione dopo insomma avere preso il posto di Music in Love. Ma insomma, ci saranno tanti appuntamenti in questa puntata. Intervisteremo Marco Di Noia, un giovane cantautore milanese, e poi ovviamente la nostra rubrica dei film brutti con Marco, che è un altro Marco in realtà, che vi delizierà con l'autopunizione settimanale per farvi star male dopo aver peccato. E poi insomma tante notizie, la nostra classifica delle 10 cose, e una nostra classifica in realtà più attinente al tema musicale, che è la nostra classifica personale di Sanremo, intima, come sarebbe dovuta andare, intima esattamente. Va bene, ma non possiamo iniziare questo programma se non ovviamente con la nostra sigla. 1, 2, 3, 4. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, pombo, clap, iodo, ciappiamo, se va, chiamare. 1, 2, 3, 4. Noi siamo i giovani, giovani più giovani. Quanto resistereste senza L'Onda in Onda ogni settimana? Poco, insomma poco, perché è un programma totalmente inutile, quindi chi ci ascolta ha dei seri problemi, come Maglio che ci sta ascoltando, Roberto, nostri grandi amici che si sono messi in ascolto con noi, ma ovviamente anche tutte le persone che ci seguono su Twitter e continuano a scriverci ogni settimana, o anche su Facebook. Quindi ridiamo i contatti per chi vuole tenersi aggiornato con L'Onda in Onda: radiopanorama.info.eu per vederci e ascoltarci, facebook.com/londainonda per scriverci sulla nostra pagina Facebook, twitter.com/ondainonda invece senza la L, e poi sms al 380 76 90 204. Scrivete, li leggeremo in diretta. Sì, esatto, scrivete che ci fa anche molto piacere. Ringraziamo invece Claudio, che ha sistemato la webcam, non funzionava fino a poco fa e per un problema squisitamente tecnico, e adesso potete vederci in tutto il nostro splendore, anzi potete vederci ancora di più perché abbiamo triplicato le web, no, abbiamo aggiunto una webcam, ora sono tre. Abbiamo aggiunto soltanto una webcam, sì, no, non abbiamo triplicato dall'alto, come sì, se lo proprio gli portasse iella. Esatto, come gufata dall'alto. Possiamo annunciare quella che sarà la classifica invece di oggi. Diciamo che ne abbiamo due, in barba alla regola della classifica settimanale, questa volta ne abbiamo fatte due, una squisitamente musicale, che è quella di Sanremo, come sarebbe dovuto andare secondo noi, come sarebbe dovuto finire il podio e il quarto posto, e poi invece la nostra classifica settimanale delle 10, e oggi avremo i 10 compagni della mattina post sbronza, quindi diciamo che ognuno con può rivedere svegli, con chi ti svegli con la mattina, svegli. Esatto, dopo la sbronza. Quindi restate con noi se volete sapere quali saranno la classifica di questi 10 posti. Poi avremo con noi ovviamente tanti ospiti come Fidelio Cusimano, che è tornato dalla Russia, dove era andato a Sanremo l'ultima volta, se non sbaglio, vero Brum? Era a Sanremo? Sì, era a Sanremo. Con l'Armata Rossa di Cutugno, sì, era a Sanremo. Poi invece avremo ovviamente le nostre ricette tipiche calabresi di Tony Scopelliti, e quindi rimanete con noi, anche perché è appena arrivato Antonio, io direi di lanciare il primo pezzo e poi ci rivediamo subito dopo. È arrivata l'onda dei successi di Radio Panorama. Voglio essere io il primo a salutarvi, tornato dal pezzo, perché sono appena tornato da fuori, cioè ho fatto tardi. Tornato, scusate. Dal pezzo e da fuori. Sì, io torno. Doppiamente tornato. È l'eterno ritorno. Ciao Brumma! Brumma, non silenzio, silenzio dietro il vetro. Io vorrei chiedere anche ai teleascoltatori. No, però dillo con la voce alla mic, prova. Diciamo le teleascoltatori. È diventato l'angolo Mike, di Mike della Uccineria. Sì, o Mike, sai l'angolo di Fabrizio, quello che urlava: compagno, queste camicie. Il grande baffo. Va bene, Andrea, come stai? Bene, ho appena visto che il PD perderà le elezioni. Sì, anch'io l'ho visto. Perché ha fatto un video, UDEM ha appena caricato un video dove fanno una H, hai presente la danza degli All Blacks? Ah sì, si chiama H. Perché H? H. Quella Wakata, Wakata, sì, esatto. Ola, ola. Però loro l'hanno fatta con i Queen, cioè con la cosa dei Queen, We Will Rock You. Pam pam pam. No. Pam, pam, ma pam. Aspetta, l'hanno fatta veramente? Sì, no, sul serio, dicevano lo smacchiamo, lo smacchiamo. Parlando di sì. Parlando del Jaguaro, poi ne approfondiremo anche noi, perché abbiamo un ospite che ci parlerà proprio di questa. Del Jaguaro, sì. Di questa piaga che sta vivendo il Jaguaro. E questo video mi ricordo un po'. Ti ricordi quando fecero il comitato milanese della PD? Fece IMPD per le elezioni. Sì, certo. E persero miseramente. Ecco, sì. Adesso possiamo dirlo: il PD ha perso. Ma perché tu pensavi minimamente che il PD potesse vincere? No, dai, siamo in par condicio. Siamo in par condicio, non possiamo dirlo. Ma non mica, io mica sto dicendo chi vincerà. Ma io ti ho chiesto: pensavi seriamente che la coalizione vincere? Magari è data la favorita. I sondaggi sì, non possiamo divulgarli. Ma c'è chi però li c'è sa. Dice, siete circondati. Esatto, esatto. Li abbiamo accerchiati. Dovresti dirne qualcun altro. Ah sì. Ah ma ragazzi, non inizieremo. No. Sempre per par condicio. Oppure la persona più allegra di questa campagna elettorale. Sì. Scusa. E io penso che l'Italia è ripartita con me e può continuare. E Monti. Sì, Mario Monti che poco fa ha parlato bene di Emma Bonino, tra l'altro. Vorrebbe che diventasse lei il nuovo presidente della Repubblica Italiana. Vabbè. Ognuno vorrebbe chi gli pare. Ingroia vorrebbe Zagrebelli. Un Bocchino. No, io no, certo, anche lui. E anche l'onorevole Bocchino vorrebbe Ingroia. Cioè, loro sono proprio siamesi. Certo, sì. Chiaramente. No, io sono per Zagrebelski alla fine. Zagrebelski, sì, Gustavo. Gustavo Zagrebelski. Pensavo che era io molto buono. Io avevo il libro buono. Di Zagrebelski. Sì, sì, tutti, perché l'hai detto come se fosse africano? Io avevo il libro di Zagrebelski. Perché per perché in Africa non c'è Zagrebelski. Ci potrebbe essere. È vero, però non so se neanche loro lo dicono così, non penso. Vabbè. Comunque, allora, dobbiamo dire che oggi è il compleanno di una rockstar che ha lasciato il mondo della musica, sì. Ha lasciato anche il mondo. Diciamo. 1994, tra l'altro, in modo tragico, se non sbaglio era aprile ed era... Sì, erano successe due tragedie in quell'anno. È salito Berlusconi ed è morto Kurt Cobain. Ma è morto anche Ayrton Senna, solo che siccome Ayrton Senna non faceva musica ma correva in Formula 1, noi per ricordare il grande Kurt Cobain, quale pezzo se non il più famoso dei Nirvana, ci ascoltiamo Smells Like Teen Spirit. La musica che preferisci. Radio Panorama. Musica allo stato puro. siamo qui tornati dopo questo omaggio al grandissimo Kurt Cobain e a tutti i Nirvana, gruppo grunge che cambiò un po' la musica degli anni 90, ma è venuto a trovarci Giorgio. Ciao Giorgio! Buonasera a tutti. Ma visto come prende coraggio. Finalmente ha preso coraggio. Si sentono la tutela. Buonasera a tutti. Ok, potremmo lanciare l'imitazione di Giorgio. Facciamo prova. Giorgio saluta. Buonasera ancora a tutti. Buonasera ancora a tutti. Che lui cerca di abbassarla non sapendo che io lo imito al volo. Direi che dobbiamo partiamo con una notizia calma, dato che San Valentino è stato, San Valentino di sangue con Oscar Pistorius che ha questo ora ne parliamo con calma. Sì, ha sparato le più belle battute del mondo su Pistorius. Che sta succedendo? Perché non si sa cosa sta succedendo, non preoccupiamoci del regista. No, no, perché c'è qualcosa aperto in questo PC. Sì, è vero. Ma dobbiamo parlare di una notizia importante. Una notizia importante che è simile a quella di Pistorius, ovvero lite di San Valentino tra fidanzati. Lei gli strappa la lingua a morsi. Delicatissimo. Non c'è un suono che rappresenta questa cosa? Non lo so, se lui può mettere magari un orgasmo, chissà, magari facciamo un amore. Amore violento, amore violento. Una storia d'amore appassionata, anziché troppo. Anziché troppo sarebbe molto più bello. I cui risvolti sarebbero forse più. L'hai sentito? Ecco i risvolti, sì. I cui risvolti sarebbero forse piaciuti a Quentin Tarantino. Un uomo ha cercato di fare la pace con la sua fidanzata a San Valentino, ma quando ha tentato di baciarla, lei gli ha staccato un pezzo di lingua a morsi. Che delicatezza. Ah, che bello. È la brutta avventura di un uomo di... Eccolo, lo sapevo io che ovviamente... Ma guarda che già Skokie. Skokie sembra una città russa. Skokie. O tipo Skopje. Skokie. Scusi, ha un po' di Skokie. Ora c'è un sapere sotto al banco. In Illinois, di 47 anni, non identificato, vittima della sua fidanzata Elaine Cook, di 51. Dai, bravo. Oggi in arresto con l'accusa di violenza domestica aggravata. I due stavano insieme da 10 mesi. La sera di San Valentino, dopo la tradizionale cena romantica. Che poi era la prima volta che facevano, sì, perché stavano insieme da 10 mesi. Ma però l'uomo. Tradizionale per gli altri. Nel mondo, sì. L'uomo accompagna la partner a casa sua, quindi tra i due comincia un litigio furibondo, così non si sa bene. Ma lei perché ne porta i segni nella sì, foto. Sì, lei, cioè, lei in effetti nella foto è stupenda. Tra l'altro è bella la scalia uomo zombie, anche se parla di altro, sì. Sembra lei. È la notizia correlata. Elaine, in preda alla collera, urla all'uomo di uscire di casa sua. A quel punto il partner le chiede di smettere di litigare e in segno di pace tenta di baciarla. Di tutta risposta, tale è la rabbia della donna che risponde con un fortissimo morso alla lingua dell'uomo, arrivando a staccarle un pezzo molto grande. Molto bello, molto bello. E adesso credo che sia il momento di collegarci. L'ultima, dovrei approfondire che il pezzo di lingua l'ha gettato nell'immondizia. Lui non è riuscito neanche a riprenderlo. No, vabbè. Non è riuscito a riprendersi. Dico, credo sia il momento di collegarci con Super Quark. No, il regista mi fa segno che ancora Super Quark non sono collegati. Non sono collegati, no. Non capisco il regista che cosa, che esigenze abbia di, sì. Per farci questi segni. Comunque sì, dovremmo esatto. Collegarci perché abbiamo parlato poc'anzi del Jaguaro, no? Sì. Del Jaguaro, questa. Ma quando ne abbiamo parlato? No, è poco fa. Quando io non c'ero, sì, scusa. Non c'ero. Di questa piaga che sta vivendo il Jaguaro, nominato da Bersani, no? Che per vincere lui deve smacchiare il Jaguaro. Hai visto che Vespa nel suo studio le ha dato un peluche. Un plastico del Jaguaro. Peluche di Jaguaro, sì, perché però ti ho detto, vorrei vedere Bersani allo studio di Vespa accarezzare il Jaguaro. E Vespa gli ha dato questo peluche. Ma il Jaguaro sta vivendo una tragedia molto, molto importante. No, io vorrei collegarmi con Super Quark. Scoprire chi è il Jaguaro. Sì, scoprire chi è, soprattutto qual è l'ultimo, cioè cosa fa il Jaguaro ora che è sotto l'occhio del ciclone. Colleghiamoci, vediamo se rispondono. Il Jaguaro, Panthera onca linneus 1758, è il più grosso felino americano. Fra i felini, solo il leone e la tigre sono più pesanti. Il nome Jaguaro deriva dal nome attribuito a questo animale dagli indios del Sud America. Jaguar o Jaguara, colui che uccide con un balzo. Ma in tutta l'area di lingua spagnola in cui vive il Jaguaro, lui è chiamato El Tigre. Ma ogni giorno in Italia un Jaguaro si alza e sa che deve correre più veloce di Pierluigi Bersani. Sexy. Ciao giovani amanti della commedia sexy all'italiana, questa è dedicata a voi da Piotta alias il Jaguaro. Con la mossa del Jaguaro tutti sciogli piano piano. Con la mossa del Jaguaro prendi questo frutto amaro. Con la mossa del Jaguaro tutti sciogli piano piano. Con la mossa del Jaguaro prendi questo ritmo in mano. La mossa del Jaguaro

Rientriamo con l'onda in onda, sempre qui dagli studi di Radio Panorama a Termini Imerese. Allora, ci eravamo lasciati con il Jaguaro, molto triste. Non ti lascio. Non mi lasciare. Non ce l'avamo lasciati noi. Noi con gli altri. Aspetta, chiama Michelino. Michelino? Michelino. Vedi che anche lui non volesse lasciato. Michelino, diglielo ad Andrea. Non mi lasciare. Ho visto l'aula Latteri. Ah, mangia mele. Ah, vuoi le mele? Perché sei arrabbiato a Critice? Va bene, ti è piaciuto e te ne stai andando. Sto bambino, ve lo faccio veramente saltare. Un deficiente. Vabbè, dicevamo. No, dicevamo che dobbiamo lanciare la nostra classifica delle 10. Già ho visto il titolo ed è meraviglioso. Abbiamo annunciato nell'anteprima i 10 compagni della mattina post sbronza. Io direi che... Bravo, il nostro regista. Ancora prima di cominciare. Allora, dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che questa settimana daremo due classifiche. Questa delle 10, ovvero i 10 compagni della mattina post sbronze, e poi quella squisitamente musicale a tema Sanremo, cioè come sarebbe dovuto andare secondo noi sì, Sanremo. Però non facciamo la top 10, ma la top 5. La top 5, vi faremo ascoltare però solo 4 dei pezzi della top 5. Forse... avremo uno dei cantanti di top 5, però non posso dire altro. Inedito. Come il nostro regista che passa veloce vuole sottolineare. Quindi iniziamo con il decimo posto dei 10 compagni della mattina post sbronza. Al decimo posto abbiamo appunto i Vuoti di Memoria. Chi sono? Chi sono? Chi ero? Dove ero? Dove sono stato? Come mi chiamo? Chi mi ha portato a casa? Questo è il mio letto. Vuoti di memoria. Non c'è tempo per tenere insieme tutte le puntate di una storia. L'avevo capito dopo che era la canzone. Quindi sì, scusate l'inserimento terribile. Come ovviamente cantava Samuele Bersani, in Giudizio Universale. E quindi 2000. Bersani, vedi che torna sempre. No, adesso dobbiamo parlare pure di Berlusconi. Samuele Berlusconi, Ingroia, Broia, Samuele Monti, Samuele Grillo, Samuele... Giannino che si è dimesso. Abbiamo l'ultima ora. Giannino si è dimesso. Non è una battuta. È vero. Perché purtroppo aveva detto che aveva... Ma tanto non si può dimettere. Perché comunque deve... Sì, diciamo sì, che si è scambiato. Viene eletto e si dimette. Tanto non esatto, viene eletto. Quindi sì, non cambia niente. Giannino, tranquillo. È arrivato Tonino da dietro gli schermi. Invece al nono posto dei 10 compagni alla mattina post sbronza abbiamo la logorrea dei parenti a pranzo. E il nostro direttore che ci tiene a comunicarci. Questo è il che ha mangiato. Che ha mangiato tra l'altro la cosa più bella della classifica. Ci ha salutato. Allora, al nono posto abbiamo la logorrea dei parenti a pranzo. Domande su domande, discussioni interminabili rimbombano nella testa. Fosse facile, anche perché prima di tutto c'è da mantenere l'equilibrio, sperando che nessuno se ne accorga di te e di quanto male stai. Ma è pranzo e si mangia. Dimostrare di esserci sciolti, perché di solito si fissa la TV, ma quel giorno, il giorno dopo la più colossale delle tue sbronze, tutti hanno voglia di parlarti. Tutti intavolano discussioni. Tutti. Pure tua nonna, quella stronza. Poverina la nonna. Ma andiamo subito all'ottavo posto e poi continueremo dopo. Abbiamo la fiatella. Chi in alcol pieno si lava i denti prima di andare a letto? Dico, stiamo scherzando. Nella bocca si forma un mondo che ha il gusto di vomito. Beh, e questo era, insomma, la più schifosa, possiamo dire, della nostra classifica. Ma annunciamo invece quella che sarà la nostra... Ma cominciamo l'inizio, adesso? Sì, l'inizio della nostra classifica, okay, diciamo, di Sanremo. Il quinto posto. Noi al quinto posto, diciamo, ci avremmo messo Simone Cristicchi. Posso accennarti il pezzo, visto che non lo abbiamo? No, nel pezzo no, abbiamo deciso di non trasmetterlo. Era un accenno. Sì, accennalo se sì, vuoi. Sì, puoi abbassare il sottofondo proprio un attimo. Aspetta che mi cristicchizzo. Bello col sottofondo comunque di Santana, sì. La prima volta che sono morto non me ne sono nemmeno accorto, l'attimo dopo ero già sepolto. Ma più o meno, insomma, sì, dai, ho saltato una strofa. Hai presente che questa qui ti ricorda un pochettino la canzone di Silvestri, ovvero Le cose che abbiamo in comune. Esatto, è praticamente identica. Infatti noi al quarto posto abbiamo messo Daniele Silvestri. E questa invece stavolta ce l'ascoltiamo. Sì, questa ce l'ascoltiamo. Non abbiamo potuto, abbiamo deciso di non farvela ascoltare tutte e cinque, perché comunque sono abbastanza lunghe. Sì, e il programma è quello che è, dura 2 ore. Sì, è un assaggio. Questa la voglio dedicare alla mia collega Anna Maria, che ci sta ascoltando da Quindi Palermo. Ascoltiamo il nostro quarto posto, sì, della classifica di Sanremo, che è appunto Daniele Silvestri con A bocca chiusa. E chi ci segue dalla webcam, io lo farò con la lingua italiana dei segni. Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo sai non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi. Ho solo questa lingua in bocca e forse un mezzo sogno in tasca e molti, molti errori brutti. Io però li pago tutti. Fateci largo che passa il cortello e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so, sono sempre quelle. È uscito il sole, a me mi sembrano più belle. Scuola e lavoro, che temi originali, se non per quella vecchia idea d'essere tutti uguali. E senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi, con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa. Era Daniele Silvestri al nostro quarto posto della classifica di Sanremo, al nostro, ripetiamo, al nostro quarto posto, mentre al quinto abbiamo messo Cristicchi, per sapere gli altri posti, diciamo. Dovete aspettare, aspettare pochi minuti, insomma. Sì. Scusate, dobbiamo dire che era saltata la webcam per chi ci ascoltava dal web, quindi adesso ci potete nuovamente vedere. Peccato, perché io volevo fare l'interpretazione con la lingua italiana dei segni. Saluto la mia ragazza Stefania alla webcam, perché mi indichi verso l'alto? No? Il bacino Stefania per te e anche per tutte le fidanzate di Andrea, di Brumma, di Giorgio. E io perché ne ho tante. Giorgio, come si chiama la tua ragazza? Non può dire il nome, non se la sente, è segreto. E la tua come si chiama? Tu sei sposato, vero? Sì. Il nostro direttore. C'è la fede o 5 anni? Non capisco la mano. Quello è il dito che ti ha fatto. Esatto. Va bene, senti, continuiamo con la classifica o ti sparo una notizia? Sì, una notizia e poi continuiamo con la nostra classifica dei 10 compagni della mattina post sbronza. Benissimo, io ho saputo già cosa ti regalerò il prossimo 17 giugno, quando tu compirai 27 anni. Anche cosa, se suona strano dirlo che hai quasi 27 anni. Ti regalerò la Lemstift. Scusa? La Lemstift. Non ce l'hai qua il super quark della Lemstift? Possiamo provare. l'hai il super quark? No, te la posso io il super quark, vai. È che noi subito ci colleghiamo. Sì. La Lemstift è una penna che segnala errori di ortografia, leggibilità, ma non li corregge. Li segnala e basta, magari con un segnale luminoso o audio, così non te li scordi, Andrea, forse. Grazie per la Lemstift, mi piace. Quindi creato questa penna. Giuro che mentre scrivi ha una sorta di microtecamerina che controlla se sei dentro il rigo. Microtecamerina. No, beh, microtecamera. Microtecamera. Oh, ma le corca pure. No, mi seccava dire anche la telecamerina, sì, quindi microtecamerina che controlla i tuoi errori e li segnala, però non è che ti dice cosa devi fare. Ma per Andrea ci vorrebbe, ti dice soltanto errore. Sta sbagliando. Cazzo, dice come correggi. Ci vorrebbe quello con la scossa. Ogni errore tipo quella simpatica quando diciamo stringimi la mano e ti vibra la cosa, no? Bellissimo. Va bene, allora continuiamo con la nostra classifica dei 10 compagni. E la mattina post sbronza ci eravamo lasciati all'ottavo posto, ma facciamo la carrellata. Al decimo posto i voti di memoria. Al nono posto abbiamo Lalo Correa dei Parenti a Pranzo. All'ottavo posto la Fiatella. E al settimo posto quella vaga sensazione di dovere delle scuse a qualcuno. Parlava l'alcol, non parlavi tu. Il tuo doppio sta addosso. Addossassimo. Addossassimo. Ma perché? Boh, ma ore dopo ti servirà la forza diplomatica di Kofi Annan per sanare i conflitti che la sera prima hai creato. Quella faccia da sberle, quel modo di fare alla corona, era figlio del quarto Negroni, mica tua. Che volevi, regista? No, niente, era addossissimo, era un errore di battitura. Ma addossassimo, però è carino. Lui ha letto addossassimo. A me comunque gli è piaciuto così. Era come, se ti ricordi la ricetta di Scopelliti quando c'erano cose sbagliate. Sì. Tony le legge così come le sono. Le legge così. E il fatto è che, insomma, essere figlio del quarto Negroni non è proprio la cosa più bella. Al stesso posto invece abbiamo le foto impietose che troverai su Facebook. Vabbè, basta mettere il coso di non farti taggare, cioè di approvare i tag, l'hai fatta. Comunque l'amico o l'amica simpaticamente sobri, quelli con live iPhone come protesi del braccio, tipo quello dietro di noi, non si lasciano di certo sfuggire il più esagitato o la più esagitata della serata al grido di facciamo la foto. Immortalano manco fossero al 90° minuto tutte le performance a cui dai vita. La tua reputazione già puttane di sera si distrugge definitivamente il giorno dopo, tipo quando hanno beccato Marrazzo che andava a pranzo. Esatto. Esempio carino. Che vedi, si riporta tutto a quella tragico governo. Sì. Quinto posto. L'SMS di uno sconosciuto o sconosciuta. Da sbronzi si fa meno fatica a socializzare e spesso si incappa in un'esuberanza ed una disponibilità altresì sconosciute. Se il giorno dopo un numero sconosciuto si fa sentire il 90% è perché abbiamo fatto qualcosa che non vorremmo ci fosse ricordato. Ma siccome abbiamo un ospite, io mi fermerei in questo momento alla classifica e gli chiederei, prima di lanciare il pezzo, Giorgio, tu quante volte ti è capitato di abbordare da sbronzo? Assolutamente mai, io non bevo. Non beve mai. Senti l'audio, che è quello che merita. Cioè non vuole neanche raccontare. Dico, no, un episodio. Lui carino. Se ne è uscito così. Scusa, abbiamo il pubblico, un episodio, uno veloce. Di una che ti ha dato una sberla, di una che ti ha detto mi piaci, non so. Niente, sei un assassino, è proprio un assassino. È un assassino. Allora, invece, dato che questo era il quinto posto della nostra classifica dei 10 compagni della mattina post sbronza, sì, torniamo alla nostra classifica di come sarebbe dovuto andare Sanremo secondo noi. Infatti, e siamo già al podio. Abbiamo detto che al quinto posto ne abbiamo messo Cristicchi, al quarto posto abbiamo messo... Esatto, vabbè, basta. Abbiamo messo Silvestri. La seconda volta che sono morto. Ah, non è la seconda volta che sono morto. No, a bocca chiusa, invece, al terzo posto, secondo noi, doveva essere in classifica Max Gazzè con Sotto Casa e noi ve la facciamo ascoltare. Yeah. Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crederei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, ma si mette nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare. Possa la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità si cela spesso dentro una persona sola, e non è tanto il sesso a consolare l'uomo dal suo pianto, ma l'amore buono ed il perdono santo del Signore. Lasci che le spieghi in due parole com'è facile sentire gli echi bassi ed immorali di comportamenti frivoli e meschini, quali certi omini in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. Si dimostra creato dalla grazia della vostra Santa Vergine Maria. Lo chiami pure se ritiene il capo della polizia, ma chi conviene tutta quella paraonda se l'ozono si è ridotta ancora a brodo e basta un solo falaputo a fare in modo che dell'uomo non rimanga neanche l'ombra. Poi ficcatevelo in testa, non si viene al mondo tanto per godere, ma soltanto perché un bene superiore ci ha creati. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio. In tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita, non chiedo mica un regno intero, dico io sono un indegno messaggero e cerco Dio. In chi vendette onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. E questo era Max Gazzè con Sotto Casa, è un bellissimo pezzo. Sì, sì, sì, racconta un po' della religione, di come viene vissuta. Sì, sì, sì, sì. Lui raccontava un aneddoto, diceva sì, che i Testimoni di Geova hanno suonato e loro si sono immaginati questo dialogo tra qualcuno che vuole comunicarti, no, la fede, e tu non gli apri la porta. Quindi un dialogo con la porta chiusa, quindi sotto casa. Sì, fantastico, come molto carina. Tra un ateo e un, sì, e un credente. Quindi. Tra l'altro Max Gazzè, quando è estate, no? E sta all'aria aperta, cambia nome, fa i concerti, si chiama Max Gazebo. Ma non lo sapevi? Questa è nella classifica delle 10 peggiori battute a dire in radio. Volevo anticipare la classifica della prossima settimana. Comunque, no, torniamo, vabbè, invece. No, sì, facciamo una notizia e poi perché. Facciamo, nel senso, leggiamo la notizia perché fra un po' inizia. Ci sarà la pubblicità, scusate. E quindi abbiamo tempo per soltanto una parte della nostra classifica. E io direi di. Notizia di, seria? Sì, una notizia serissima. Questa? Una serissima molto seria, tra l'altro, che non riguarda mai un campo specifico, no, delle nostre notizie. No, non riguarda né l'area genitale né sfera sessuale. Infatti questa volta parliamo di acqua. Getta acqua bollente sui genitali del marito mentre dorme, moglie a processo. Vabbè, però c'entra l'acqua, quindi vedi, stiamo c'entra virando l'acqua. È accusata di aver gettato acqua bollente sui genitali del marito, danneggiandoglieli per sempre. Eccolo. Io Oliver Lopez. Ma cioè, perché queste cose sempre a me? Non c'è più viso alla rabbia quando ho scoperto che il marito Nefer Netan. Compa, allora, uno che si chiama intanto Netan, non c'è un accento. Nefer Netan, ma sembra Nefertite, non so, sembra venire dalla. Io Oliver Lopez e Nefer Netan. Sì, sembrano due medicinali. Due medicinali. Cioè, per fargli stampare gli inviti al matrimonio, hanno fatto un corso. Nefer Netan da 10 cc. Gli aveva mentito. Nefer Netan, ovviamente. Non era infatti stato a bere un paio di bicchieri con gli amici come gli aveva raccontato, ma aveva passato tutta la notte con l'amante. Così, mentre lui dormiva, ecco, la donna ovviamente ha preso la pentola calda e gli ha versato il contenuto sui genitali. L'uomo è stato subito portato nel pronto soccorso della città colombiana di Martinez, dove i medici gli hanno curato le ferite. A scatenare la rabbia della Lopez e le parole dell'amante, che probabilmente stanca di essere la seconda scelta, ha telefonato alla donna e le ha rivelato: abbiamo fatto sesso. Che bello. Quindi, che bello. Una molto simpatica l'amante. Torniamo subito velocemente alla nostra classifica dei 10 compagni della mattina post bronza. Veloce il ricapitolo del decimo posto. Te ne sparo velocissimo. Vai. Decimo posto, i vuoti di memoria. Al nono posto, la logorrea dei parenti a pranzo. All'ottavo posto, la fiatella. Al settimo posto abbiamo quella vaga sensazione di dovere delle scuse a qualcuno. Al sesto posto, le foto impietose che troverai su Facebook. Al quinto, l'SMS di una sconosciuta. E al quarto, il mal di testa. O mal di testa e di universo, Fernando Pessoa. E noi su questa citazione colta ci lasciamo con la pubblicità. Ci lasciamo con, no, il terzo posto invece della, il secondo posto, scusa, della nostra classifica di come sarebbe dovuto andare a Sanremo. Al secondo posto noi abbiamo quel ovviamente grande Rafael Gualazzi. No, non abbiamo Rafael Gualazzi. Non abbiamo Rafael Gualazzi? No. Incredibile. No, tu ce l'hai. Devi andare sotto. L'ho visto. Abbiamo Rafael Gualazzi. Sì, l'abbiamo. Guarda, vedi che c'è. E allora ci ascoltiamo. Si era Rafael nascosto Gualazzi. Rafael Gualazzi. E subito dopo c'è la pubblicità. Sì. E quindi dopo restate con noi. Perché chi se ne va è il figlio di tua maestà. Di Gualazzi. Di Gualà. Sì, è figlio di Gualazzi. Certo. O di un baccalà. O di Però possiamo continuare a parlare. Perché è bella l'introduzione viverla così. Sembra di cosa potrebbe essere figlio? Gualazzi con cosa fa rima? Apri gli occhi e te ne vai. La danza è immobile. Scopre i tuoi fianchi il vento. E nei giorni ogni momento vorrei percorrere

E dopo esserci saltati qui con il grande pezzo di Puto, dei Molotov. Dei Molotov, il pezzo si chiama Puto, ci siamo saltati qui in studio. Bene, siamo sempre qui sulle frequenze di Radio Panorama, questo è L'Onda in Onda. Siamo in diretta dagli studi di Termini Imerese e sul web su www.radiopanorama.eu o in etere sui 106.4. Mi fanno segno dalla regia che siamo, sì, abbiamo già l'onore di avere qui l'ospite del giorno. Allora diamo il benvenuto qui ai microfoni, al telefono di Radio Panorama, a Marco Di Noia. Ciao Marco. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao, come va? Bene, sono in crisi. Ovviamente è in crisi superstar, beh, giusto? Faccio autopromozione. E beh, è giusto così. Infatti io ho evitato di chiederti se ti stessi annoiando, perché chissà quante volte ti vanno fatte battute del genere, quindi evitiamo. Ma guarda, l'elementare le facevano spesso. Sì, e poi tu li hai uccisi tutti. Adesso stiamo ritornando. Perché diventi famoso e quindi è meglio, dai, alla fine le puoi anche accettare. Dico, penso avrai ucciso tutti i tuoi compagni delle elementari che facevano spottò, per questo poi hai avuto una pausa negli anni successivi, o sbaglio? Ma guarda, se li avessi uccisi a quest'ora avrei sul capo non so quanti ergastoli altro che ti quindi evitiamo. Allora, come dicevi tu stesso, sei in crisi, ma a crisi superstar. Tra l'altro, nel frattempo, mentre noi ti stiamo intervistando, invece stiamo ascoltando un altro dei due pezzi, che è il valzer del cappellaio matto. E mentre poi ascolteremo alla fine dell'intervista il singolo. Senti, parlaci un po', proprio partiamo da questo singolo. Cosa ci vuoi raccontare? Come è nato? Come mai la scelta di renderlo il singolo del tuo album? Ah, la scelta di renderlo singolo dipende ovviamente dalla tematica, che è quanto mai attuale di questi tempi. Come nasce? Nasce dall'osservare la realtà che mi circonda, che tasto con mano, che tastiamo con mano tutti, a cominciare dai miei amici musicisti, che molte volte sono costretti a vendersi gli strumenti per pagare l'affitto. Quindi se non è crisi questa... Certo, però perché superstar? Perché? Perché la crisi era superstar dei nostri tempi. Ah, assolutamente, dice, è proprio lei, è la protagonista dei nostri tempi. Sì, io basta metterla. Sì, vai, no, parla, prego. Basta mettere la parola crisi su Google. Sì. E è seconda soltanto a Berlusconi. Questo è obiettivo, cioè non è una battuta politica, siamo in par condicio. Ovviamente siamo in par condicio, quindi è soltanto, cioè, la verità. Sta raccontando il nostro amico Marco. E tra l'altro, mentre parlo con te, il mio collega sta facendo la prova. Scrive crisi. Guarda, la seconda è crisi economica, però a noi compare. Sì. Prova per Berlusconi. Devi vedere il numero di risultati, secondo me. Scrivi crisi e scrivi Berlusconi. Ah, il secondo risultato, no? Sì. Non il secondo, crisi Berlusconi. Senti, tornando a noi, non crisi. Niente, il mio amico non sa neanche scrivere. Senti, stavo vedendo che a proposito proprio di questo album, mini album omonimo, Crisi Superstar, ti avvali di grandi collaborazioni. Gli arrangiamenti di Mallio Cangelli, correggimi se sbaglio, che è stato pianista del grande scomparso Pierangelo Bertoli, di Amy Stewart, di Riccardo Fogli, e al basso anche Fulvio Monieri, che ha suonato con Bennato, con lo stesso Fogli e con l'Equipe 84, giusto? Esattamente, sì. Poi c'è anche Zola Viola, che è un sassofonista molto noto nel settore. Sì. Emergenti, Massimiliano Lobue alla batteria e Simone Beccarelli alle elettriche e alle percussioni. Insomma, è, diciamo, tanta roba, come si usa dire. E sì. Tu quanti anni hai? Ti devo chiedere l'età. Allora, io, avendo fatto un brano che termina con "persino al Vaticano lamentano la crisi mette in croce davvero", sì, spero quest'anno di non essermela tirata, dato che io vado per i 33, quindi... Ah, proprio l'età, insomma, quella che conosciamo un po' tutti, i famosi anni della crocifissione di Gesù Cristo. Senti un po', al momento tu ti stai muovendo suonando in club, locali, hai un tour che sta per cominciare, cosa stai facendo al momento? Allora, sabato prossimo in quel di Milano al Coast, che è un locale, presentiamo il video di Crisi Superstar, dove io interpreterò il presidente del consiglio neoeletto, un presidente fantomatico, ovviamente. Certo, ovviamente. Di Garde Piantano. Sì. Poi il 15 di marzo suonerò alle Scimmie di ritorno, perché è il bis che... Ah sì, ai Navigli di Milano? Sul barcone, quello lì famoso di... Sì, il barcone sul Naviglio, sì. E tra l'altro mi accompagnerà al piano il mio compagno di Viaggio Live, che è Vincenzo Gardani, che è delle vostre parti, perché lui è nato a Bronte. Vincenzo, scusa, ripeti il cognome? Gardani. Ah, nella Sabronte, nella terra dei pistacchi. Ma il barcone a cui ti riferisci è quello utilizzato poi da, dalle vibrazioni, elio, eccetera, per il video. Ah, ho capito. Beh, bellissimo. Bella location, assolutamente. E senti, tra l'altro, io sto vedendo. Poi scusa, vai avanti. Il 13 di aprile suono in via del Campo 29 Rosso a Genova, nella casa dei cantautori genovesi, che ha patrocinato il mio CD, quindi sarà un concerto. Quella della famosa via del Campo c'è una bambina. Sì, la ricordiamo tutti, bellissima. E senti una cosa, vedo che sei nato ora, sto informando un po' meglio, non solo nell'80, e quindi vai per il 33, toccamose, ma sei nato il 4 luglio, cioè c'è anche un film nato il 4 luglio. Vuol dire che forse quello è il segno della tua indipendenza, anche il giorno della tua nascita. Ma considera che mi chiamo Marco, che in Italia il 25 aprile è la nostra festa, è la nostra indipendenza, se vogliamo dirla così. Sì. Quindi l'indipendenza fa parte della mia vita in tutti i sensi. Assolutamente. Bene, bene, bene. Senti, il tuo genere diciamo che è un rock and folk, quindi quali sono i gruppi a cui ti sei riferito di più, o i singoli cantanti, artisti? Ma no, a nessuno, cioè nel senso che rock and folk metropolitana è uno slogan anch'io coniato, poi motivandolo a posteriori sostanzialmente, perché non sapevo come definirmi, me lo scrivevano tutti e io non sapevo dove collocarmi, quindi me lo sono inventato. E è un genere cantautorale di crossover, che non si ispira a nessuno se non alla mia vita e a portare i miei gusti e la mia personalità in musica. Sicuramente invece ho dei gusti musicali. E se mi chiedi chi sono i miei cantanti e band preferiti, ti dico Fabrizio De André tra i cantautori, i Queen tra le band, ma poi ho gusti abbastanza vari che vanno anche a toccare l'opera, il musical e anche il metal. Sì, ho trovato la tua foto davanti alla gigantografia bellissima di Fabrizio De André, quindi avevo sicuramente colto anche questo. Senti, guarda, noi ti ringraziamo tantissimo, date al sud non ce ne sono al momento in programma, diciamo che ti fermi fino a Centro Italia. Ma vediamo come va il singolo. Vediamo come va il singolo. Allora, bocca al lupo, incrociamo le dita. Noi ringraziamo Marco Di Noia di essere stato qui con noi ai telefoni di Radio Panorama. E adesso ci ascoltiamo proprio il tuo pezzo. Ecco l'applauso che manda la regia. E adesso ci ascoltiamo il tuo singolo, nonché titolo del tuo mini album, Crisi Superstar. Grazie Marco. Grazie a voi, l'augurio è quello di mettere in crisi la crisi. Benissimo, bravo, questa ci è piaciuta. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Tanti megabyte di sorrisi bianchi e dive travestite da scoprire con un click del mouse. Bella la virtualità, ma dopo questa pausa di relax ci attende la realtà. Dove la superstar è la crisi esistenziale, la crisi dello Stato, la crisi del lavoro, la crisi del mercato. Persino gli psicologi lamentano la crisi mette in crisi davvero. Belli film d'amore dove anche i vampiri fidanzati giurano per l'eternità. Bella è la fedeltà, ma dopo il lieto fine apparirà la stessa superstar. La crisi delle coppie, la crisi sessuale, quella delle nascite, quella matrimoniale. Non solo l'anno settimo, ma anche solo un attimo, la crisi ci separa davvero. La crisi mette in crisi. Mio nonno, mio padre diceva, ai miei tempi la vita era più dura. Adesso io dico, papà, tu avevi le big band, la beat, il grande boom. Noi invece la prendiamo nella crisi discografica, la crisi del più o meno, la crisi radiofonica, la crisi di Sanremo. Sul trono un re bemolle mi fa soltanto crisi, la crisi ce le suona davvero. La crisi immobiliare, la crisi degli affitti, la crisi degli affetti, la crisi dei profitti. Se anche i calciatori lamentano la crisi ci ammonisce davvero. La crisi ci sgambetta davvero, ci sbatte in fuorigioco, ci batte a tavolino, ci mette nella crisi. Noi invece la prendiamo nella crisi della pubertà, la crisi degli ormoni, dei giovani precari e dei vecchi fannulloni. Se anche le accompagnatrici pagano la crisi manda in bianco davvero. La crisi nazionale, la crisi provinciale, la crisi è andata in crisi nella crisi universale. Persino al Vaticano lamentano la crisi mette in croce. Croce, croce, davvero. Beh, carino, carino. Sì, sì, molto carino e molto carino. Devo dire che mi è piaciuta anche l'intervista, perché vogliamo ricordare, no. Dai, un attimo, solo un attimo, senza dire chi è. Tu rispondi. Come stai, caro tizio? Ma perché stai così? No, beh. Come? Stai bene? È un po' il nipote di Ingroia. La vitale, sai, un po' l'Ingroia imitato da la da vitalità, Crozza. La vitalità di un'intervista. Assolutamente, sì. Ma andiamo con una notizia, se abbiamo tempo. Dobbiamo andare avanti con la classifica, dimmi tu. No, andiamo a notizia. Sì, abbiamo notizia e poi abbiamo un ospite. Abbiamo un ospite, quindi notizia. Intanto volevo comunicarvi, e qua scatta l'applausone, che, cari miei, rullo di tamburi, anzi, rullo di tamburi, sempre pronto il nostro regista, rullo di tamburi. La spiaggia più bella del mondo, secondo TripAdvisor, è quella di Lampedusa, l'isola dei conigli. Applausi! Del mondo, non parliamo della spiaggia italiana, europea, del mondo, quindi si è messa in sacchetta Caraibi. In sacchetta. Mi è venuta proprio spontanea. Proprio, sì. Se l'è messa in sacchetta. Messa in sacchetta. Non ce l'ho fatta, ragazzi, mi è venuta proprio così. Si è messa lì, in quella, diciamo, come si dice, nel sacco. In tasca. Sì, sì, insomma, l'ha messa in quel posto un po' in a tutti sacchetta. I luoghi famosi del mondo, i Caraibi e altri, insomma. Quindi siamo molto contenti, ma è il momento di chiamare il nostro ospite, il primo della giornata, sì, anzi il secondo. Perché è lui, sappiamo che, insomma, è un... Io vado a chiamarlo. Un ospite che ci viene a trovare da mesi Tony. E mesi. Ecco, sentite Tony. Antonio che lo chiama, perché lui è appunto un ex medico, nutrizionista, cacciato all'ordine dei medici per aver ucciso accidentalmente un malato di ipertensione con la ricetta dell'anduia calabrese. Ed allora, per lavare l'onta di questo insuccesso, Popi, non capisco cosa c'entri, caro regista, però... È arrivato Tony! Non riuscivo a capire. Allora è Tony, riprova. Guarda. Tony. Ecco, ma non è andato a chiamarlo? Ora. Sì, è già qui dentro, però sta zitto. Ok, capisco. Credo che non lo vedo. Ti faccio vedere, Tony parla. Non c'è. Non parla, no, è qui, ma non qui parla, sta zitto. Lui, appunto, va girando le radio di Italia per sponsorizzare quella che è la vera cucina calabrese. E il mercoledì è qui da noi, ma lui ovviamente non può parlare perché ancora non è iniziata la sua bellissima tarantella calabrese. Io vi presento Tony Scopelliti. Caro Tony. No, Tony, non salga. Buonasera a tutti quanti. Buonasera, Tony. Che entusiasmo questo qua. Che cosa c'è? Sono contento di stare con Mario, c'è la pazienza. Cosa? No, ho parlato una lingua che manco io capisco. È la prima volta in cui una persona parla e non sape manco che sta dicendo. Glielo faccio risentire. La super cazzo. Stasera sono ci faccio la passa. Anche noi, guardi. È una lingua inesa. Sì, assolutamente. È una lingua come? Inesa. Senta, caro Tony, che ricetta ci porta oggi? Un primo o un secondo? Partiamo da questo. Intanto parliamo di bombole d'ossigeno che sta crepando. Bombole d'ossigeno. Allora, vuoi un rock o una pizza? Ma è un primo o un secondo? Un secondo. Ma... No, mi lascio un secondo. Fammi ripetere. Le do un secondo. Ma come si chiama il piatto? I rock. Sembra un... È un parente dei waffle. È un parente dei waffle. I rock. Sì. I rap. Il rap, ma perché per l'inglese? Perché il rock è messo del rock and roll. Rock and roll. E allora, il rock è la pesatizia. Cioè cosa? Non ripeta da capo. I rock, il rap e sasizia. Cioè, in italiano. I broccoli con la salsiccia. I broccoli, sì. Con la salsiccia. Vabbè. Però sono immagino quelli gli ingredienti. Gli ingredienti. Quando le dici due volte sono i ringredienti. Certo, li diciamo una volta. Allora, abbiamo l'olio extravergine d'oliva, non dico niente, è vero? Niente. Sono extravergine, cioè, nulla. Nulla. I broccoli rapa. Sarebbero i broccoli di rapa. Attenzione, Qua sì. Si apre un altro mondo. Un altro mondo. Attenzione. Quindi carta e penna. Mi broccoli raccomando. Di rapa. Li dovete scegliere. Scusa, mi può mettere la musica del Super Quark? Se è possibile. Perché mi pigliai un poco di invidia. Sai com'è? Mi piacerebbe spiegare quali broccoli bisogna prendere. Io poi mi calma. Quella musica. A chi stai parlando? Chi? Tony. I broccoli di rapa. Sceglietele con le foglie colo verde. Io leggo colo, non c'è aereo. Colo verde chiaro e senza fiori gialli in apaleruacqui. Sopra i broccoli. Senza fiori gialli. Ma colo verde. Allora deve essere un colo verde, ma okay. Senza fiori gialli in apaleruacqui. Certo. Perché le fiori gialle sono velenose. Quindi mi raccomando, i broccoli di rapa per questa ricetta sceglietele con le foglie colo verde. Sta diventando cretino a ripetere. E questo è un ringrediente. E senza fiori gialli in apaleruacqui stessi. Va bene. Possiamo tornare alla tarantella, se no non riesco a parlare. Certo. Tutto. E allora adesso poi ci vuole sale. Salsiccia calabrese peccanti, tanto, almeno 100 kg, 63, 400 kg, 65. Ricordi, 100 kg, 63, 400 kg, 65. Perché i due in più sono due. Ovviamente se c'è il vostro collaboratore radiofonico, come si chiama, o signor Pino. Come si chiama? Pino. Ovviamente ci vogliono 800 kg. Certo. Vabbè, e poi ci vuole tanto aglio. Tanto aglio. Perché poi la mattina dopo c'è la fiatella. Certo. Ed ecco, ho sentito la classifica. L'importante è che lei ci segue sempre, caro Tony. Vediamo al procedimento. Piglio la ringorsa, aspettasse. Pulire le rape eliminando il gambo all'altezza tale da scartare la parte più dura. Pulire accuratamente anche le foglie eliminando le parti giallastre. In seguito tagliarle in pezzi di medie dimensioni, piccole, grandi, medie, grandi. Dopo averle pulite, lavatele, mondatele con abbondante acqua, contemporaneamente mentre sabollire la salsiccia in una padella. Praticare dei fori con una forchetta in modo da fare fuoriuscire il grasso. Il grasso che fuoriesce. Che si scioglie da eliminare ogni tanto, cioè tipo alle 5, poi 5 e mezza, con un cucchiaio per evitare che cuocia con le salsicce. Facciamo un secondo di pausa per prendere appunti ai nostri ascoltatori. Sì. A posto, continui. La bollitura può durare dai 10-15 minuti. Preparate una padella, non la paglia, perché non deve spagna. Aggiungete olio e uno sticchio d'aglio. Dico sticchio, uno spicchio. Fate soffriggere e aggiungere le repe ancora gocciolante di acqua di lavaggio. Che schifo, sembra che parla. Ma è la sua ricetta. Sì, però mi fa un po' schifo. Appunti presi, andiamo. Se necessario aggiungete un altro poco d'acqua salata e coprita e con un coperchio inizialmente il volume sarà impressionante e girarla comporterà qualche difficoltà, ma diventa un romanzo. Ma col passare dei minuti il volume diminuirà notevolmente. Cuocere per 20 circa, avete scritto? Sono avete scritto buono, se non avete scritto me ne fotto. Quando le rape sono quasi pronte aggiungere la salsiccia e fare insaporire per qualche minuto. Servire caldo. È morto Tony Scopelliti. Noi dobbiamo ricordarvi che nella nostra classifica di Sanremo, come sarebbe dovuta andare? Al quinto posto abbiamo messo Cristicchi, al quarto posto poi abbiamo messo Silvestri, al terzo posto Max Gazzè, al secondo posto Gualazzi e il primo posto, vi facciamo ascoltare subito dopo la ricetta di Tony Scopelliti, è colui che avrebbe dovuto vincere secondo noi Sanremo, ma con la canzone sì, che è stata esclusa dal festival, ovvero Elio e le storie tese, con la canzone esclusa Dannati Forever. Mi chiedevo, posso smaltire i peccati con i giochi, ma sono troppi peccati mortali che ho collezionato. Per esempio, ho fatto adulterio, mentito, rubato, continuamente pisello, toccato. Fin dall'età di 6 anni ero già condannato. Vado all'inferno, nel fuoco eterno. Gli onanisti, i comunisti e Gengis Khan. Chi l'avrebbe detto che sarei finito dannato? Ma come ti muovi, ti imbatti in un peccato? Credi in un gruppetto di dei e poi li nomini in vano. Per Giove, per Diana, per Marco, per Vinci, pippi e ti dimentichi di santificare. All'inferno. Non onori i papi, non onori namami. All'inferno. Accidentalmente assassini la gente dopo una cena elegante all'improvviso formichi. Crema protezione

avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. E diamo un benvenuto a Marco. Ciao, come stai, carissimo? Ciao, grandissimi. Ma il grande sei sempre tu. Come va? Come va? Come è passato questa settimana? Ma guarda, direi è stata ottima. Ottima. Personalmente, sì. Questa da mercoledì a mercoledì veramente eccezionale. Dal punto di vista dell'autopunizione invece com'è stata? Ma guarda, direi che questa settimana ho un po', diciamo, mi sono un po', diciamo, premiato con qualche scena di vista su YouTube, diciamo, di qualche capolavoro che ho già visto, insomma. Ho voluto rivedere qualche perla. Qualche perla dei film che si trovano su YouTube, esatto, di film brutti. Esatto, che anche i nostri, diciamo, amici potrebbero, diciamo, gustare. I nostri ascoltatori? Sì, esatto. Quindi ce ne proponi uno che si può trovare anche su YouTube questa settimana? No, in realtà no, perché infatti siccome io voglio particolarmente male questa volta ce lo fai cercare, voglio, quindi voglio proporre un film abbastanza improbabile. Ma il no, già il titolo mitico, è meraviglioso, il titolo. Esatto, che è il mitico Gappa, il mostro che minaccia il mondo. Gappa, sembrano di quelle parole che dici tu, Andrea, nei tuoi risvegli. Gappa, di cosa parla? Spiegaci questo film, dai. Ah, fondamentalmente il film si colloca in quello che è il filone del mostro che distrugge la città, tipicamente giapponese. Infatti il film è diretto da Hirayasu Noguchi. E già meriti un premio per aver detto il nome in giapponese, non ce l'avrei mai fatta. ti ringrazio, che praticamente ricalca un po' quello che è il plot del classico King Kong, del classico Godzilla, insomma. C'è una spedizione, diciamo, di esploratori molto biechi che trova un'isola perduta nel Pacifico e si porta dietro un bell'uovo, un bell'uovone, dal quale poi, diciamo, esce fuori un gappa, appunto, che è questo mostro a metà fra una lucertola, tra un rettile, diciamo, e un uccellone, infatti tutto coperto di fiume. Sì. Comunque è rilassante come nome. Guarda, proviamo a dirlo in coro. Ragazzi, tutti sta arrivando Gappa. Aspetta, no, dobbiamo Gappa. Dire insieme solo Gappa. Pronto Marco, anche tu con noi? Cioè, qua siamo in tre, anzi in quattro. Pronto regista? Uno, due, tre. Gappa. È rilassante, unisce. Antistress, ma in realtà dobbiamo autopunirci. Quindi antistress un par de... continua, caro Marco. Esatto. No, infatti poi il cucciolo sarebbe anche appunto tranquillo, insomma, diciamo. Sì, ma sembra la mascotte di qualcosa. Sono poi i genitori che, diciamo, si alterano un po' per la situazione. Sì. Difatti invadono Tokyo e cominciano a distruggere tutto a forza di fiatate di cherosene che, diciamo, emettono dalla bocca. Anche loro con la fiatella, quindi. Capito? Esatto, io vi lascio solo immaginare, diciamo, cioè i pupazzoni incredibili, sì, che regnano sovrani nel film e schiacciano qualunque tipo di modellino di grattacielo, di ruspa, di carro armato, insomma è veramente un massacro del modellismo, insomma, proprio il bello, proprio il succo del film è proprio il massacro di tutto ciò che, diciamo, gli assistenti di scena hanno costruito con dedizione nel giro, penso, di mesi, e tutto viene il pupazzone distrugge tutto in un istante, esatto, da un uomo dentro un pupazzo con le piume e il becco, veramente incredibile. Ma hanno fatto pure giocattoli, vedo un'immagine, sembra un giocattolino, sì, sembra per il bimbi. Esatto. Il merchandise di Gappa. Esatto. Il grande esatto. Gappa. Per capire proprio la potenza, insomma, avete questo rettilone, però c'ha le ali, un po' queste piume strane. Veramente brutto. Esattamente. E poi anche gli artiglioni, insomma, che anche quelli, diciamo, sono veramente potenti. Il film come continua? Qual è la scena che rende meritevole questo film di essere considerato veramente brutto? Beh, fondamentalmente, diciamo, tutte le scene di distruzione sono assolutamente da vedere. In particolare quella in cui, diciamo, c'è proprio la fuga della massa di persone fra grattacieli e si vede benissimo che è un tappeto tirato via, diciamo, da un'assistenza di scena che simula, diciamo, il movimento di grandi masse. Ma forse proprio è il finale, proprio quello che poi strappa anche qualche lacrimuccia, se vogliamo, perché c'è il ricongiungimento familiare, diciamo, il piccoletto viene, diciamo, ripreso dai legittimi proprietari, dai genitori, e i tre, diciamo, decollano dall'aeroporto di Tokyo con una poderosa fiammata che, diciamo, si intuisce partire non proprio dalla bocca. Dalla bocca, ecco. Ah, abbiamo capito. Esatto. Quindi da anche, diciamo, questo retro a esatto, Tokyo. Esatto, esatto. È proprio un decollo per la regola, insomma. Un decollo verticale. Diciamo, che suggella questa scena strappalacrime del ricongiungimento familiare, diciamo, dei buoni, diciamo, che avevano voluto... diciamo un po' il ricongiungimento, no? Chiaramente il cattivone voleva tenersi l'uccellino per sé e chiaramente c'erano, diciamo, i classici buoni che vogliono che il piccolo possa ritornarsene giustamente nella sua isola. Appunto, questi i tre uccelloni ripartono e tutti sono contenti perché, diciamo, è un happy ending. È un happy ending. Dei... La città sarà rasa al suolo, però sono contenti che il mostriciattolo è con i genitori. Ma vedo che comunque ha riscosso un discreto successo perché sì. C'è anche un'immagine fan made di alcuni ragazzi che hanno ricostruito in disegno stile manga Gappa. Sì, ma c'è anche la marca con la sportiva, robe di Gappa, non certo. Ci sono sì, vero. È famosissima. Questa è sempre la classifica delle 10 peggiori battute da e noi siamo già radio. Al posto numero 9. Esatto. Vediamo le prossime posizioni. Allora Marco, con cosa accompagniamo questo bellissimo film? Allora, siccome è un film che è particolarmente adatto anche a un pubblico, diciamo, di giovanissimi, per non dire di bambini, che potrebbero essere, diciamo, instradati alla punizione proprio con un titolo come questo, lo accompagnerei con le caramelle Dulciora. Che sono? Quali sono? Delle caramelle addirittura griffate Disney. Praticamente sono delle caramelle, diciamo, classiche gommose con le forme dei vari personaggi tipo Paperino, no? Topolino, quindi c'è Topolino verde, Paperino giallo, che però, diciamo, non corrispondono a nessun gusto perché le caramelle sono solo gommose, non esiste nessun sapore, sono tutte uguali. Che bello! E si sente solo proprio la rassura in gola dovuta all'eccesso di colorante alimentare. È un po' come le alghe fritte al ristorante cinese, sì, non sanno di nulla, è proprio la consistenza che mastichi, punto. Esatto, esatto. Benissimo. Un po' di masticare il pongo. Che, esatto. Almeno il pongo ha gusto. Che schifo. Ma tu non eri, Andrea, tu non da piccolo non leccavi la colla come Giacomo? Sì, sì, sì. Che schifo. Cioè, ma aspetta, la colla Prick, non so se avete presente, la Prick Stick. Vabbè, ti rendi conto che DJ abbiamo qui. Va bene, Marco, noi siamo sempre fieri di averti qui con noi. Ti meriti. Sono contentissimo. Ti meriti. Noi siamo fieri che tu sia contento. Ti meriti l'applauso qui dalla regia. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori a cercare e trovare Gappa, mostro che. Scusami, ripetimi il titolo: il mostro che? In italiano è Gappa, il mostro che minaccia il minaccia, mondo. Ecco, minaccia. Quindi non minaccia. Ovviamente uno poi può cedere o meno alle minacce. Va bene Marco, noi ti ringraziamo, ci ascoltiamo un altro pezzo che dedichiamo come sempre a te in chiusura dell'intervista. Ci ascoltiamo i Nerd con She Wants to Move. Ad ogni ora, grandi successi di ieri e di oggi. La tua musica. La tua radio. Radio Panorama. Your girl, she loves it. her. Beat it! Mister, look at your girl. Damn. She loves it. Oh, ma... ma che stai facendo? Allora, ciao, no, lo so che siamo in diretta, però è sempre bello. E senti, Michelino è andato via? Non lo so. Ma mi... scusa, mi è uscito male. Michelino? Ma mi... Voi. Ah, bibidi. Ma voglio. Ah, dica. Ma voglio. Zeberebeu. Zeberebeu. Cosa? Erano... Ma sono gli Abba in versione araba? Gli araba. Mamma. Solo mamma dice. Mamma. Ma quanti anni hai? Io non ho mai chiesto. Ove? O-I-M. Nove O-I-M. Ragazzi, io sto bambino. Vabbè, io lo amo e quindi ho bisogno di intervistarlo. Va bene, bello, quando chiudo il microfono al bambino nella sua culla tifosissima. Sì. Senti, avete sentito dello spot omofobo di Fratelli d'Italia? Simpatici, simpatici. Sì, molto simpatici. Non so, Bruma, tu hai seguito Sanremo? No, non ho seguito Sanremo nemmeno un secondo. Allora, grazie. A Sanremo si sono presentati. Ma grazie che non è che l'hai fatto tu Sanremo che mi della dici sincerità, grazie. Della sincerità. Un regista ci mancherebbe, con scusa. I controfiocchi. Un regista con i controfiocchi. Vabbè, ma anche vedere come collaborano i tuoi colleghi Radio Rai. Ah, insomma, era interessante. Vabbè, comunque. Ma io sono avanguardista. Io sono avanguardista, anche pirla. Comunque, vabbè. Ma... Dicevamo che a Sanremo si sono presentati due omosessuali prossimi al matrimonio, che sono diventati famosi per un filmato online in cui sono seduti l'uno accanto all'altro a favore di telecamera e espongono dei cartelli con i quali praticamente fanno un discorso. Dicono intero. Che sono a favore di telecamera. E sono a favore di telecamera e anche poi dei matrimoni. Poi c'è la parte gay. Contro, dice io sono contro telecamera. Io sono contro telecamera, è un cretino purtroppo. Allora, hanno pensato bene due candidati della lista Fratelli d'Italia, quella diciamo della Meloni e di La Russa. Ah! Ogni tanto lui ritorna, passa, però nome La Russa. Ah! E hanno pensato bene di fare... Quello non lo so imitare. Vabbè, è grosso. È grosso. Sì. Bo, bo, bo, bo. Comunque, praticamente hanno pensato bene di rifare questo spot a favore dei matrimoni gay, però sai cosa dicono? Vota noi, poi dice il primo cartello, perché noi teniamo alla famiglia, che è fatta da uomo e donna. Il figlio e tutto quanto. Quindi il giorno 24 e 25 febbraio non votare con vota con il cuore, non con il culo. E quindi è abbastanza. Tra l'altro dice pure alla fine, come loro ridicono ti amo, ci amiamo lì, ti amo uomo, ti amo mio uomo, loro dicono noi amiamo le donne, soprattutto te Giorgia Meloni. La Meloni si è subito, direi che è il minimo, se non una pernacchiona. Come? Comunque loro si sono lei si è un pelo dissociata, ha fatto bene direi, perché dice l'hanno fatto loro di loro spontanea iniziativa. Radio Panorama condanna tutta quella che è omofobia, lo possiamo dire, lo possiamo noi siamo dire, contro l'omofobia dire. Ma siamo invece a favore della nostra classifica dei 10 compagni della mattina post sbronza. Siamo sul podio. Di rifare un velocissimo scursus. Velocissimo. Decimo vai. Posto. I voti di memoria. Nono posto. La logorrea dei parenti a pranzo. Ottavo posto. La fiatella. Settimo posto. Quella vaga sensazione di dovere delle scuse a qualcuno. Sesto posto. Le foto impietose che troverai su Facebook. Quinto posto. L'SMS di uno sconosciuto. Quarto posto. Il mal di testa. E poi siamo al podio. Andiamo subito al terzo posto. Le 10 compagni della mattina post sbronza. Al terzo posto abbiamo Loki. Sei ancora talmente sbronzo che a tua sorella chiedi se può farti un Oki doppio on the rocks. Grazie di esistere Oki. Grazie malvagia industria farmaceutica. Grazie. Grazie. Grazie. E andiamo subito invece al secondo posto. La promessa di non toccare mai più alcol. Tipo i politici che dicono non mi ricandido, e che se poi non li ricandidano rubano le liste elettorali. Non solo, ma anche i tecnici che promettono di non ricandidarsi invece si candidano come Monti. Vabbè, vorrei dire ecco, che no. L'Italia sì, va bene, va bene presidente. Io spero sì, di vincere presidente. Andiamo al primo posto invece. Sono il primo posto, rullo di tamburi. Quello è rullo di tamburi. Per il primo posto di 10 compagni la mattina post bronza abbiamo la dura realtà. Il giorno dopo il giorno di festa non è più festa. E il giorno dopo una festa è sempre il giorno più duro. Tipo quando ti cala l'entusiasmo. Ecco, la dura realtà è quella. Sei stato sopra il range per ore, hai cantato, bevuto, goduto. Made in heaven, angelo celeste, fatto, strafigo. E cosa ti rimane? Niente. Le 9 posizioni che hai appena letto e la mattinata peggiore della tua vita. E questa era la classifica delle 10 compagni della mattina post sbronza. E adesso è tempo di ascoltarci un nuovo pezzo. Prima di salutarci ci ascoltiamo i The Black Keys con Gold on the Ceiling. Siamo sempre qui in diretta dagli studi Radio Panorama, sono le 19:57, quindi abbiamo il tempo per una notizia velocissima. E un saluto soprattutto. Sì, allora facciamo questa, 3 notizie velocissime. Lettera di minaccia di Ingroia, non so se hai saputo, sì. Ha ricevuto lettera di minaccia, sei un comunista di merda, 1000 kg di TNT T4 sono pronti, insomma, quindi solidarietà a Ingroia se non se l'è mandata da solo. Esatto. E dico piccola presa, ma sai com'è. Dai, non fare il male. Però capita. Comunque poi in Virginia invece, per andare contro la proposta di Obama di tagliare le armi, il possesso d'armi, hanno pensato bene in una pizzeria di proporre la pizza scontata a chi va con le armi. Voi dovete vedere le foto, c'è gente che entra con i Kalashnikov e tipo ha detto che il proprietario che l'80% dei suoi clienti è arrivato con un'arma, quindi belle cose, devo dire. Di Pistorius abbiamo accennato e poi io direi che dovremmo fare un complimento a Luciana Littizzetto, che ha portato sul palco di Sanremo, a parte la sua ironia e bravura, un monologo sulla violenza contro le donne che è meraviglioso. E io direi che proprio l'ultimissimo tratto lo vorrei rileggere, l'ultimissima parte. Un uomo che ci mena non ci ama, mettiamocelo in testa, salviamolo nell'hard disk. Vogliamo credere che ci ami? Bene, allora ci ama male. Non è questo l'amore. Un uomo che ci picchia è uno stronzo, sempre. E dobbiamo capirlo subito, al primo schiaffo, perché tanto arriverà anche il secondo, e poi un terzo e un quarto. L'amore rende felice e ci riempie il cuore. Non rompe le costole e non lascia lividi sulla faccia. Pensiamo mica di avere 7 vite come i gatti? No, ne abbiamo una sola. Non buttiamola via. Quindi grande, grandissima Luciana Littizzetto. E direi che sono 19:58. Per chi ci ascolta in replica? L'1 e 2. Quasi le due. Quasi le due. Perché hai dovuto dire le due. Aspetta, le che due. C'è uno che si è inserito che fa il furbo. Com'è? Le due. Identificati. Sono Giorgio. No, non fare la voce profonda. Comunque un tuo amico ci ha detto: chiedetegli chi ha conosciuto a Capodanno. Vedrete che stranamente non si ricorderà nulla. Ma lo saprete mercoledì prossimo, perché ci rivediamo appunto mercoledì prossimo, sempre con l'Onda in Onda qui su Radio Panorama. Vi salutiamo, è tardi. E sapremo anche chi ha vinto le elezioni. Esatto. Quindi votate, votate, votate. Bene, ma votate. Lui era Andrea. Lui era Antonio. E di là il vetro Bummo. E ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao. Salutiamo Giorgio. Ciao Giorgio. Ciao. Call, 'cause she didn't work her leg. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Yeah.